ancora nessuno chiama. Buonasera. Marcoli. Sì, con Piazza ho detto, tutti ascoltano, nessuno chiama. Alla fine non fa vedere nessuno. Perché è un canale di morti. Non è vero. Io, vabbè, io sto facendo oggi giornata di roba in casa, sto facendo lavaggi uno dietro l'altro, stavo trovando un problema idraulico in cucina, un ipotetico problema, e quindi sono andato a salutare solo. Credo di aver riconosciuto la tua voce e ho provato a realizzare. Magari se li facciamo venire avanti entrano. Segnale da fondo scala, quello che ha fatto il figlio. E c'è anche Natalino, avanti Natalino. Ui, buonasera mi. Cazzo, e questo canale di Murti sempre attivo. Sta addirittura a fondo scala, ero Marco. Mia, ciao Luca, ciao Natalino. Io sto uscendo, sto andando a prendere la mia compagna che è proprio da niente, dai. Cazzo, in giro entrambi, va. Vado, la prendo, la compagno e poi ci sentiamo dopo, dai. Ciao Cappa. Ciao Luca. Ehi a Luca, ciao Natalino anche. No, ma quello col fisco aveva un... non era proprio un bip, era uno stacco strano. Fatà, si sentiva. Ero io, ho fatto così. Sembrava di pezzo, era come quando nel Viking 2 avevo tolto il bip, però sentivi lo stesso la posa dal bip, sentivi papà. Questa è, come si dice, però quella l'antenna piccola, da calamita però, ma cosa mi consigliate, senza spendere molto? Hai dato male, me lo metto il telefono in macchina. Ma la vuoi efficiente? Se la vuoi efficiente prendi quella di doppio room, che poi è uguale alla mia, come resa. La Midland, come la vuoi, piccola, grande, media? No, piccola, tanto non devo fare lunghi viaggi. Vabbè, piccola rende poco. Ma piccola quanto? 60, un metro? 60. Non si sa. Oh, sto uscendo. Sì, figlierà un metro e mezzo, l'antenna vuole un metro e mezzo. Se non ha la sua lunghezza non rende un tubo. Sì, vabbè, lui la vuole piccola perché non tutti vogliono antenne in parasoni, però è vero, io se vuoi avere un minimo di resa, un metro e mezzo è il minimo sindacale. Consiglio di non scendere mai sotto il metro e mezzo. E Luca deve essere già andato, da tanto ce l'ha chiamato che... lo sto aspettando, è andato già, viene. E già ce ne sono antenne, tante marche, tanti modelli. Magari non saprei cosa consigliarli, che sia piccola ma meno peso di altre, non saprei cosa consigliarli. L'LM, occhio all'LM perché tirano certi pacchi, certe inchiappettate con questa LM. Ne ho avuto la prova io, e non solo io, proprio per leggere i commenti. Vai Tony. Comunque c'è anche Natalino, dai. Avanti Natalino, tu già non sei un morto vivente. Io sono sempre attivo. Poco fa ero con il capo, insomma, me ne sono alzato e ho subito acceso l'apparato. E ho trovato a voi qua. Non c'è altro nessuno, boh, tanto. Che c'è un gialli dato casino e poi non vai mai, boh. Era in macchina, era. E dopo un po' è sparito e non si è più inteso. Ma abbiamo parlato in due. Ho detto Gianni, come mai è sparito? Ciuffando di nuovo sta. È sparito di colpo. Di Manuela, dove adesso è tornato anche. Stamattina stava parlando con me, con Giulio. E poi a un certo punto non l'abbiamo più sentito. Io quando l'ho sentito di notte mi aveva mandato un video divertente. Lui però deve stare attento che c'è ogni tanto questi, per via del diabete, questi giramenti di testa, cosa, cioè dovrebbe tenere i valori in quel range stabile, non deve essere né troppo alta né troppo bassa, cioè, deve rinunciare a qualcosa mi anche per la mangiuzia, cioè lui già lo sai, gli piace tutto, pizze, cose, gelati, lui non si risparmia. No, che adesso dice che sta facendo da bravo. Sì, voglio vedere quante vaschette di gelato ha in freezer. turista. E allora, e poi da Protollero alle paste, lo sappiamo. Sì, ma lui ce l'ha peggio del mio, perché io faccio soltanto un'insulina, se la faccio pure a volte, ma non le faccio, lui ce ne fa 4 al giorno. Lui è molto più pesante di quello che c'ha da lui, capito? Lui deve stare attento. Sì, ma l'altro giorno stava raccontando in radio che ha avuto come delle vertigini, così d'improvviso. Però non so se sia alta o bassa in quel caso. Io so che quando è bassa comincia a prendergli a tremarella, comincia a tremare tutto. Sì, sì, perché il fratello di una mia ex compagna gli cedeva 57 e veniva la tremolina da freddo, e prendeva. Comunque è morto, poveraccio, andava sua, stecchito, l'hanno trovato per terra, fuori dalla porta. E non è voluto augurare la morte a nessuno, per carità, ne guadagnerei molto bene. Però, ripeto, lui ci deve far controllare, no? Deve stare attento a quello che mangia. Non è, io ho un gelato che lo faccio, vabbè, quando c'ho un po' bassa a 105 me lo faccio un gelato, non c'è problema, non mi sale molto. Ma lui è diverso dalla mia, quello che ci ha capito. Io sono come quello di Nazzarino praticamente. E non ne abuso lo stesso, io penso che me la misuro 8-9 volte al giorno. Quindi, è sempre sotto controllo la mia. Sì, l'esordio l'ha avuto ragione, se ne si è accorto da molti anni che si è diabetico. 130, capito? Oppure scende, ma dipende da cosa mangio. Io oggi per esempio a pranzo nulla, ho fatto tardi, nulla, mangio mezzo una pasta, non basta. E non mi sente neanche molto perché non c'è niente in corpo. All'inizio abbiamo parlato in due, poi però già ho capito il discorso. Allora volevo dire, Gianni, quando se n'è accorto del diabete? Da molto? Cioè da giovane se n'è accorto pure? Questo non te lo so dire, io posso dire il mio che me ne sono accorto nel 2015 quando venne ricoverato a trasferire per il cuore e quindi per lo scompenso cardiaco e mi toglievano sempre il sangue e poi l'anno mi ero chiamato, un bel giorno mi ha detto lei ha il diabete, ma sto scherzando che in casa mia non c'è nessuno. Sì, sì, ma non si preoccupi, non è un diabete, è quello che viene dopo 60 anni, quello normale, merito 2, non si spaventano, niente di grave. Quindi, anche se lì non si fa l'insulina, se la sera ce l'ha molto alta, la notte dice non succede nulla. Metto così. Io dovrei fare un bel controlli, perché avendo passato 50 tutto devo controllare, sangue, cuore, prostata, tutto, dovrei fare un check-up. Tu pensa, avevo 61 anni quando ero all'ospedale, che me l'ho trovato sul diabete, quindi sono passati 8 anni. Sì, però meno grave, dai. Ci sono, purtroppo il diabete poi quando è invece in forma più grave ti amplifica ogni problema. Quando ti operi, quando ti viene una qualsiasi cosa, il diabete ti peggiora tutti i sintomi e anche le, come dire, hai visto cosa era successo a Gianni del piede, no? Che aveva poi fatto un coccio di bottiglia, che aveva passato la scarpa e si è messa roba di Natali, quanto ci ha messo un anno e mezzo a guarire a malapena, o 2 anni? Non me lo ricordo, un bel tempo ci ha messo perché non trovava la cura giusta. Ma non è solo la cura, lì anche il diabete che ti peggiora tutto, anche la cicatrizzazione, tutto, è una rogna, e purtroppo in Sardegna dilaga un bel. Comunque è una malattia diciamo brutta, perché è molto silenziosa, io non ho nessun sintomo, la verità. Io per scrupolo me la misuro tantissime volte, prima colazione, dopo colazione, prima di pranzo, dopo pranzo, il pomeriggio, e me la misuro prima di cena, poi dopo cena, poi la notte, capito? Io me la misuro spesso volentieri, invece avere sotto controllo e basta, grazie a Dio. Sono già 8 anni così sono tranquillo. Sì, e tu Natale, io sono alla fine tutti a casa, oggi per festa, nessuno è andato in campagna, coso, no, niente, picnic, no. No, video. Cosa campagna? La campagna. Già mi sono stato a casa io. Ho fatto un bel pranzo. E tira campagna. E poi il tempo. Oddio, io vedo anche nuvole, mi sembra che stia peggiorando pure il tempo. Che palle, vabbè. Quando c'era sole troppo caldo mi lamentavo. Adesso che il tempo peggiora, piove, mi lamento lo stesso. perché non siamo mai contenti, non siamo, e cosa vuoi ti dia? Purtroppo è così. Aspetta un attimo, che qui in questo cortile, cioè siamo anche fratellino, sembra un momento veramente di gioco. E ieri durante l'incidente importantissimo per il processo, perché il fratellino è sette chiave per l'omicidio di Samanna, ha detto che gli fa male rivedere. Che devo fare una cosa? Ne abitua adesso che fai i Natali, fai, comunque siete più la TV, cavolo, giù mai, che non quello che dici. Forse siete sulla televisione. No, ma infatti in quelle condizioni l'amplificato non fa che peggiorare. Cioè si sente la TV quando vai il cane, senti il cane o Concetta Bozzi. E allora tanto vuole usare il macchino normale, è che a lui non gli piace tenere roba in mano, a me sì. Chi è che ha sbadigliato? Robè, ho bisogno di segnare. Ciao Robè, lo siete Roberto Marcolì? No, aspetta che abbasso lo squelch, che era alto, per via della propagazione. Prova a venire avanti Roberto. Sì, lo copio, 6 e mezzo, sì. Praticamente è quello che sta usando l'antennino dall'Ugurento, no? Eia, a me mi arriva a fotoscala. Beh, vorrei vedere. Sarete portato ottica a tiro di schioppo. Se me faccio lo saluto. E a cosa posso dire, 10 metri da me? Forse neanche 11 metri all'incirca. Millo mi, la bella da bello il sbadiglio. Vabbè, ti sono chiamato da poco fa, Luta. No, dice mamma, niente, c'è l'antenna ancora incasinata, ha sciolto il capo. Tra poco si scioglie pure i zebiti. Non so se è più o più, ma c'è l'antennino, cosa vuoi di più? Io sono in condizioni minimali, pensa che a sorso mi fanno fatica ad ascoltare, a parte che ce l'ho schermato. Quindi queste 3 watt e mezzo modulati, di 3 watt e mezzo. Faccio questo filtro e mi toglie 1 watt, quindi 2 e mezzo, più la calata e tutto, io in antenna ci avrò, se va bene 2 watt, se no 1 watt e mezzo. E come segnare così da te, Tonino? Tu stai arrivando a 9:10, l'era del 5, io invece mi sono sollevato il palo, un altro paio di metri all'incirca, cosa sarà, 5-6 metri il palo, e più c'è l'antenna, la Veno. Ah, la Veno, ma non hai più quella che avevo io, la Energy, no? No, no, è da molto, l'ho tolta da Gianni, poi Gianni, non so che fine ha fatto qua. Magari la tiene come antenna di scorta. E io questa l'avevo messa nel 2014, lo sai che credevo durasse 2 anni, te l'ho detto, guarda, se dura 3 anni si è ripagata. E invece, dal 2014 al socio, fate il conto. E io come ti arrivo a te, Marcoli? Allora, a questo Smitter che tirchio è 9 modulato 9,5, se metto 3,900, sì, almeno 9,10, almeno. Non è capo. Oh, bene, c'è la zona in cui sono io, ci arrivo a tutte le parti, dai. Sì, ma non sei così nemmeno lontano da Sassari. Per esempio, chi poteva arrivare col tuo segnale era da Ottava, c'era Coso, come si chiama? Il camionista lì. Vabbè, 9, arrivava 9 anche lui, dai, nudo e crudo. Ma c'è anche Marino da Ottava. Marino, Marino siamo lì, mi. Vabbè, con questo Smitter è 8, tipo una cosa del genere, siamo lì, dai. È come se fossi a Ottava, però Ottava ce l'ho leggermente più libero, la zona tua è più coperta, dai. Comunque io ho visto che ho notato il segnale, addirittura forse prima non lo copiavo, proprio più pio, adesso invece arriva a 7,9, perfetto, buono. Anche non lo sentivo, adesso lo sento. Cioè a me mi ha giovato parecchio, a parte che ho spostato l'antenna in 3 metri verso l'esterno, e in più ho sollevato e molto meglio adesso. Avanti, vabbè. Vabbè dai, ma almeno ti fai sentire pio pio, poi se mettiamo la tua antenna vedrai che sarà meglio. E va bene così, tragitto, dall'altra volta, se tu mi devi a me, anche tu hai già una piazzata, invece no. Sì. parco lì, il carissimo Roberto, che lo conosco una vita, che lui parlava tempo fa, tantissimo tempo fa, quando l'ho visto buttarmi via vicino a casa mia, ha detto, beh, ma andate nel baracchino, oh, raga, me lo capo qua, no, no. Allora, infine, l'ha cimugliato, io. Ascolta, lui qua però, quando modula, il segnale si è a mezzo setta circa, però quando modula non ha radio, cioè dovrebbe parlare vicino, se no si sente un bisbiglio ma non comprensibile. Capito Romea, metti il microfono c'è la bocca. E un numero poco il microfono, così meglio senti. Sì, così va bene, è normale. Ma prima a certe volte era come se io parlassi con questo punto. Mica te lo devi mettere in QSO. Sì, se ormai è normale, sì. E lui antenna ne può mettere, ne deve mettere, antenna esterna. Sì, ma lui è come sono io, può mettere quello che vuole, anche un traliccio. Io ho contattato uno che per un traliccio ne aveva solo due dei metri da 3 metri vuoto, no? Se non due da 6 metri li avrei comprati subito subito. Purtroppo sono piccoli. Per avere 6 metri c'ero già il mio palo 6 metri. Vediamo se Natalino è rientrato. Io sono sempre qui, non sono mai andato via. Ma dovevi fare una cosa, non so. Al cesso eri. Guarda il telefono, Marco. Competenti. E dov'è il telefono? Boh, aspetta che lo cerco. Perché non suona, capito? Non lo sento. Non suona, non vibra, non funziona più. Lo devo cambiare. Buttalo via, compro uno nuovo. Sì, infatti ero lì, poi ho detto no, aspetta, io voglio guardare intorno, voglio vedere cosa esce. Voglio vedere lo Xiaomi 13. Volevo pigliare il 12 Pro, però. Non lo so, è uscito già da un anno e mezzo, cioè già vecchio, non dico vecchio, ma capito il senso. E cappa. E tu Natalia, Roberto già lo senti? Natali. Oh, io. Roberto già lo senti? Già lo sento, ma adesso sento un bel rumore, mi è arrivato tra capo e collo qua. Andare avanti Roberto. Era freddo freddo non sopra uno, si stava così bene, ci ho visto male che i corsi, mi era sentito tutto qua. Vabbè, il tempo suo, siamo ottobre, ah sì, no, siamo novembre da oggi. Andava, già va bene quando è così. E vabbè, ormai il sole, sennò quella riva è niente, me l'avrei fatto a posto, to sale e via, ma il sole non viene quasi nulla. Beh, più o meno già lo sa chi l'ha fatta, no? Ma io questa non è, io ogni anno lo facevo 4 kg, tutto mai me. Poi ho visto quest'anno niente, uno o due anni c'ho che non ne faccio più. E allora, Marcolus. Via, ho trovato il telefono. Natalino, ti tratti bene? Mazzo, stare in scena. Adesso la mazza me ne scena. Adesso non ho mai compreso. E chi è Antonio? Anche sai chi chiama a tua casa? E chi? Mi sta parlando con mamma, lo sta salutando. Minchiolis. Ah, Malcone, trombone. Mamma mia, una croce. Quello sta sperando sempre di non beccare a me. Io l'ho detto. Io non ci sono mai, sono sempre fuori se chiama. Mamma mia, peggio delle zecche, peggio di prima. Ma è sempre il suo abita? Con la sorella, sì. Falli mettere le baracchine, aiutalo. Io l'avevo fatta come battuta, mio poveretto, tanto. Piuttosto che stare così a non far nulla. Tanto ormai sono passati i tempi brutti. Ma la sorella non vuole categoricamente, assolutamente. Non ne vuole sentire neanche parlare. Sì, beh, la sorella è abituata a giocarsi alle macchinette, l'ho vista io a videopoker. E lui lo lascia come ho fatto, c'è una parte, per carità. Il curioso diceva, cosa, dice contro il braio, dice tua sorella che si è sposata da quel romano Finocchio, ti ricordi? Non mi ricordo se glielo diceva Piero, o Marco 131. Piero glielo diceva, io con la zia sua ci ho bisticciato. Ah, sono entrato così, adesso mi gioco 5 euro. Sono entrato e ci vedo a Falcone, poi vedo la zia, gioco la macchietta, mette 20 euro, io lo fermo, guardato. Ha visto, non ha vinto niente, ci ha messo il cartello, occupata. Ma macchinetta a fianco, altre ventiero, niente, mette cartello occupato, e poi gioca l'altra macchinetta, vado io, il primo cartello, taglio, lo tocco e comincio a giocare, si avvicina lì, e poi ce l'ho io occupato, ascolti, lei non può occupare tre macchinette, se non vince se ne va una all'altra, ma cosa cazzo si deve, adesso faccio la cosa, mi scava a culo, gli ho alzato la voce, e è venuto il titolare, cosa c'è, così così, gli ho spiegato, e no signora, lei non può fare così, o gioco la macchinetta, boh, se metto il cartello vuol dire che è andato a prendere il soldi al bancomatto, oppure ha messo una cosa e poi ritorno, ma non occupare due o tre macchinette, e mi guardava male, tra poco a me da mare, va, non occupi, se scemi nel culo, a voce alta, e poi ha avuto mai a me, io. Mica ti scatena Paoletto contro me. E allora sì, mi, le dame di vasi in terra, la carità, poveraccio, mi ha fatto la pena quel Paoletto, buttato lì nel divanetto che c'è seduto, da giochetti, lo marito un pinguino, passava, ripasseggiava, che se la mandava, un macco. Insomma, dai. Vabbè, sì, comunque non puoi bloccare una macchinetta, uno ne blocca una se deve cambiare i soldi, quello che è, ma non che ne blocchi una, ne blocchi due, i soldi ce li hai e giochi con le altre, che senso ha? Dice, cioè, ma ci vuoi dire, ma tu c'è problema se accetta, se non ti dà, non ti dà, ma io convino e vinco i soldi che hai messo tu, perché sei imbecille, e tu non puoi comprare tante macchinette per recuperare i soldi, e poi ce li butti tanti su da una parte all'altra, e cosa fai? Nulla, e va a finire che trovi un tipo come me, dico me, esci me mezzo. Quello è successo a me. Gente che si è spesa anche stipendi in sale giochi, poi nel momento che ha lasciato la macchina che non aveva più soldi, arriva un fischello con un euro e si vince 100 euro, poi altri 100, poi... e quello crepando, guardando, è anche pericoloso, si trova richiesti la pina pure. È un casino comunque, stare attenti, questi giochi pazzi, no, io è raro, la maggior parte mi gioco, la maggior parte, una volta a settimana, guardate, vinci. Sono anche fortunato, mi è uscita la salletta, 100 euro, una volta uscito il lingotto, ho preso solo 200 euro, però una volta tempo fa avevo preso quello, il maxi da 20 euro, ho vinto 1000 euro, per tre volte l'ho vinto, poi 500 euro, insomma, un po' di fortuna ce l'ho, però non gioco spesso, Marcolì, mi capita una volta a morte di papa, dice il mio grande vinci, e vinco. Oh, basta, ma non è che lo piglia spesso, non capita, ma non lo devo sentire se non nulla. Infatti mi ha detto che faccio un culo e boom, e vabbè. Andrà bene, va bene, dipende. Io sono fuori questo. Se fuori, il capita, vabbè, già vai un golfo tu. Io sono uscito, ma anche in goccia sono crescito, e infatti mi so com'ero, cazzo. La mattina c'era freddo lo stesso, mi vigilato, Cesi, mangi molto il giubbotto pizzanti. Tatalino, riprendi. Mica l'ho mandato pure a te, guarda cosa ne dici. Aspetta che guardiamo. Allora, fammi uscire da qua, Natalino. Ente! O se che dici, devo assaggiare una cosa bella. Hai capito, tre pietà, questo è solo il pranzo mio, aspetta la cena. La cena ci sono anche i papazzini. Mica ti fa male Natalino, no. No, non ne mangio io, no, di papazzini, già me mangio un riccio però. E fa bene, a me dolce no, ma roba così. Io guarda, ieri mi sono fatto di tarini di gatti, ci ho messo due o tre patate fatte a pezzi, talmente piccoli, quasi trasparenti, che si sono consumate quando le ho cucinate, e ha fatto un bel brodo, ci ho messo anche le lenticchie, e ci ho messo anche i pisilli, e dirò una cosa, due o quattro foglie di alloro, ma è uscita una bella zuppetta, ma così buona, che ce l'ho lasciato nel frigo, me la mangio anche stasera. Io c'avevo gente per quello che ho cucinato così. Intervento chirurgico molto delicato. Capito. Per recuperare almeno parzialmente. Poi oggi è festa, ci sta. Compatibili con una semplice caduta. Anche se ho cucinato così, io ne ho mangiato poco di ogni cosa, no? Non è che mi ho mangiato un piattaccio di mani, di ogni cosa, no? E vabbè, se la puoi fare ogni tanto. Niente, io ho fatto un po' di spesa, ho avuto dei piccoli problemini, mio fratello mi ha chiamato, se ne faceva fuori a fare un po' di spesa a lui, gliel'ho fatta, poi sono andato a prendere la mia compagna, l'ho portata qua e ho perso. stesso tempo, insomma, la spesa non me la sono fatta, domani con calma me la faccio, quella che mi manca, ho già la lista e me la faccio. Ho visto che mi è arrivata la pensione oggi, che era uno, cosa che molte persone, a qualcuno non gli è arrivata, il perché. E tu ascolta, io ho sempre versato, grazie a Dio, ho la pensione di vecchiaia, ho sempre lavorato, ho 39 anni contributi, quindi automaticamente forse era baisso, anche giorno in festa, giorno uno, zacca, è puntuale, mi arriva sempre la pensione. C'è gente invece no, il 2, e vabbè, se c'era il 2, almeno me l'ha fottinuta, a me mi è arrivata. Però, oggi che oggi non ho fatto niente, non ho comprato nulla. Lo so, no, io vado il 2, perché dice che pagavano il 2, con la scusa che oggi era festa. Magari c'è, mi dice, sia quella di mia moglie che la mia, però vado domani. Vabbè, no, io non ho ritenuto opportuno, diciamo, di né ritirarmi i liquidi e né fare spesa, perché, ripeto, era impegnato, la verità. Poi quando sono più libero, automaticamente, domani con calma, prima devo fare un lavoretto qua sotto la veranda e poi vado a farmi un po' di spesa. Sì, uno è impegnato, non è pensando ad andare a ritirare nulla. Vedo che già muoio, faccio i fari accesi, quelli fotovoltaici. E capita. Bianco per me. Gianni Vernuccio siamo, autunno inso. E a faccia, ma duro l'aria, e paghi su fasi. Che già subito. E beh, Marcolino, e allora? No, ha fatto bianco. E allora ti faccio il caffè. Roberto, riprenditelo. Che non ha ciuccio di cane, Euria. Euria, se vedi rubiato che mi ha mandato Natalino, che vedi i camperoni, un rimone intorno, che bello. E ci ho messo anche il brandy. Così è bello con l'indu e bevuro lo brandy, usiamo di più. Ricca maglia etichetta nera. Sei proprio vista, Giubbù. Tutto quello che dico. Vabbè, io chi sono riesci a guidare, vabbè. Vabbè che non mi gonda io, ma neanche la canna, proprio nulla. No, no, no, no, io sono negato con i riconi. Sì, anche io non ne bevo. Io è per sfumare i gamberi e buco. Atterrato su questa... Ma così è imbriagato lo gambero, però. E sono più buoni imbriaghi. Atterrato sulla... Niente, a me mi piace troppo lo boi, poi mi piace. O in agliata, o in insalata. Mi piace troppo, troppo, troppo. Mi pare di non da piccare io a chi costa troppo caro lo boi. Tony, anche io ho intenzione. Io ho visto pescando i pulpi che si attaccano alla tottanara. Sì, quando vedo il bianco, già lo sai, io con la sardina lo perdevo, la corretta e via. E lui, là c'è proprio una canna lì. Vabbè, e tu pecca nuda. Non ci sono andato ancora, no. Usciva del sangue dall'orecchio. Siamo organizzati, ma si organizza ma non si fa nulla. La di chi mi rompe le balle è andata giù. No, io tre in acqua. L'acqua è molliccia, dal tragitto cadero benzina, ci sono grappa alla gamba, ero agli scudi dettati da fughetti, no, no, no, no, no, no, no. L'ho messo, si deve attaccare la muovio, la corretta mia, compreso. Un cacchio io vado sotto e a seccarmelo, vai, vai, cazzo di frequento. Sì, e fate la buona di babbo per zia, ma scusa un attimino, con la benzina che prendi e l'esca che pareggi, chi da che dà, se lo fa bene al mercato, e no, non è la stessa cosa. A chi so viene le busti luce, viene 3-4 lì c'è la frigorifera, e invece io me lo piglio freco freco, me lo mangio e da tutto una cosa ore. Chiusi, chiudi ex. Avanti se chiudi ex. Buonasera, solo per un controllo, grazie. Santiago 7 e 8 circa, Radio 5, chi sì? Sono Adriano, continua a cassare, tu da dove? Io sono a San Camillo, Tonino Kawasaki. Oh, ciao Tonino, sono nuovo, scusa, avanti, stai girando. Cappa, avanti, Tatari. Ciao Adriano. Salutiamo il nuovo entrato, dai. A te ti arriva un po' di cara, me. Arriva forte anche qua, meno male che lo sento bene, ga. Arriva bene, arriva. Comunque mi hai sentito, Adriano, dopo tanto, Di che sto portando? Sono un uovo. Ma cosa uovo? L'uovo lascia stare dov'è? Buonasera, ma vedete, di cosa sta per scoprire? Se ruba la magna, come al solito? Sì, Natalino, ci ha fatto venire la cane magna, tu c'è un piattone di camerone, ca. Ma quello è un laido, è laido. Natalino, non è dove sei inventato, mi ce l'hai. E a chi è che non l'ha mangiato? Di virus. E speriamo anche... Veramente, i noghi, adesso lo sputtano. Speriamo proprio. Vedi, abbatta il puttanato, Adriano. Se avevo mangiato in piantata di ravioli, ma buoni, ravioli buoni. Questi erano, questi gambiloni, due di numero, e un sicchio di... parmigiana. Poi, vabbè, abbiamo sfondato un coso, un bidone di vino. Sto sentendo tutto. Ok, vabbè. Adriano, ma guarda che io me l'ho immaginato che tu eri da Natalino a mangiare i gamberoni, perché già come hai premuto il microfono CQDX praticamente ho sentito anche un po' l'odore di gamberoni. Lui ha quello del soffiata. Ui, ui, ui, per carità. Natalino, come sei conveniente? Parlando con voi sono seduto nella cadrega. Roberto ci ha allontanato. Vabbè. Tu come hai fatto venire la cane e magna, io non ci ho fatto mai che peso oggi. Natalino, non ci ho fatto che uscire. E cosa ne sappiamo se non avevi fatto il peso? Se no avevi invitato pure a te, tu un incazzo. L'attore ha finito che il gatto sia tra te. E no, perché sono dovuto andare a fare mio fratello a fare il favore. E mio fratello cammina poco, c'ha quasi 8 anni, il fattore che ci ha fatto la mazza al coccodrillo, e quindi automaticamente tra una cosa e l'altra, e fa chi, cioè, fa che d'altra, andai che dà, insomma, me la faccio con calma, e poi invece sono arrivato a casa, boh, non avevo più gana. Chi su è, quando da voi c'hai tutta la impegnata, poi non ti viene gana di cucinare, di niente, e c'ha più tutto pronto, non conto, ma se te la devi fare, come te la giù da fare io, e non hai gana, no, non c'è Cristo, è brutto così quando non te ne viene voglia di cucinare. Purtroppo. Avanti Adria, che ci racconti di bello? Niente. Oggi giornata di festa, grande spanzata, grande mangiata, da almeno una volta ogni tanto. Sì, dai, ci vuole, dai. Ci vuole, ci vuole, andrà bene. Poi ricordate una cosa, oggi ci siamo, domani non si sa, ma è meglio goderci la vita, e quando si è voglia di una roba buona bisogna comprare e magnazia, la faccia ai lacri. Ecco, bravo, e qui te l'appoggio, ma te l'appoggio forte però, se ti senti. Io direi te la spingo piano piano, eh. No, hai fretta, metaforicamente. Oh yeah. Comunque, ascolta, fate scherzi, come ti arriva te alla tua stazioncina? 9+5, radio 5+5. Meglio così, dai, già sta andando bene. Mi ha giovato salire anche l'antenna di altri 2 metri, ca. Ma Adriano sta facendo con un dipolo, mi. Sa poi c'è un tindidoggio, un cazzo, scende un ghiccio. E con le mutande? Ah, gli ha attaccato un paio di mutande in modo che non possano dire che disturba. No, no, le mutande sono proprio per accordare, senza mutande non accorda. Vabbè. Comunque, ma stai già con un dipolo, Adria? Sì, sì, confermo, dipolo per pronto. Con le mutande proprio attaccate. Sono proprio mutande spesso. E... non che mi serva come tenditoio, però... tenditoio in più, ho perso se sono un po' mutande a prendere aria. Ah, va bene allora, dai. Perché nella via in cui si va diretto quella zona lì e insomma, ecco perché ti arrivo bene anch'io. Ma non ti credere, no? Perché per come sono messo io pure, zona sud-est, sono aperto sud-est. Il dipolo è proprio sulla finestra, l'avanzato. Vabbè, sono al secondo piano, ma poco fluisce perché ci sono parati molto più alti con me. Sta andando come un dipolo, va. Dipolo va, quando deve andare va, male ma va, è un dipolo, non è un'antenna su questo. Sì, il dipolo fa anche da direttiva, invece per quello, comunque. Già, va bene, quella zona è tutto aperto, capito? Quindi, io sono anche un po' in alto, quindi automaticamente la prende quella zona. Sì, sì, conferma, infatti. Il direttivo qui probabilmente si è trovato con i fondi di beccano di polo a 90 gradi. Ce l'ho anch'io il dipolo, ma me lo devo piazzare bene ancora. Non funziona, sta. E io lo posso anche fare mezz'onda il dipolo qua, e c'ho lo spazio, la voglia. Quindi 550, 550 a voglia. Sì, vabbè, cosa vogliamo fare? Accusata di aver fatto sparire il loro micio. Sì, ce l'ho, però vuole piazzato bene, non è piazzato bene ancora. Di cui non si parla d'altro. Io cavo già ne ho parecchio, quindi faccio il dipolo, la discesa ce l'ho per il cavo, quindi voglio, non c'è problema. Andare. Sì, sto pensando a fare anche un dipolo. Andare. No, beh, sei entrato? Chi si è andato a piacere con il caffè oppure faccio un panino? Sì, mi pare che domani so se mi posso andare lì. Se piete con i pisini. E a chi Mariso? La figliola? Cacca la bagaccia tua! Bellissimo, che abbiamo. Perché Adriano? Ma vaffanculo, io me ne sogno a caso di te. Te ne sogni? Io purtroppo stasera no, dovrei riuscire a comprare, ma siccome non ne voglia, ma compro domani e me ne faccio domani a pranzo. Comunque Adriano, eri da molto che non mi ci dì, la voce mia è sempre quella, no? Come? Ho detto, la voce mia è sempre quella. La voce tua è sempre quella. Nel senso, sempre squillante, non è che ho calato, più o meno leggermente modificata, no. No, radio 5 più, quando dico radio 5 più vuol dire radio 5 più, perché io sono di quelli fissati con modulazione buona, no? Ma loro carro per appena già lo puccio a prescindere. Ecco, anda bene, Natalus, facci piano col mangiare. E io già ci vado piano. Capito, ci vado piano. Io già l'ho cucinata quella roba, però io ne ho mangiato poco. Non è che ne ho mangiato molto, no? Beh, vabbè, io stasera mi devo accontentare di quello che ho cucinato. E oggi non ho pranzato niente, la verità, quando tardi, c'era il frigo da ieri, cavolo. Ho fatto questo ditanino di gatti con lenticchie, pisilli e patata fatta a pezzi piccoli, che si è anche sotto, ha fatto un sugo proprio brodoso, bello, denso, cavolo. Dopo le do una scaldottina, me la mangio ed è la fine del mondo. E avanti Andrea. Tutto gonfio. Minomi, oh Manuè. Oh? Tutto gonfio, sì. Ma cazzo te lo. Ciao Manuè. E che fine avevi fatto? Non ti ho più sentito, cazzo. Che faccio? Stavo lavorando, che sono fatto. Anche adesso stai lavorando? No, oggi no, è scherzo. Ah, perciò dicevo. Vabbè, sei un po' bassino come segnale. La radio, Lo so. E con questo uscì un po' più forte. Con quello si va bene, sì. Vabbè. Natalie! Uia, aspetta, lasciami salutare a Brigido. Su che andiamo? Sì, biondo, ciao Natalie, mi hai sentito? Ciao, bello bello. Che dici tu? Natalie. Ui. No, sei uscito. No, negativo. E cosa esci? Rimani proprio rubiti che era una zampogna. Manco la scarpa mi sono potuto mettere. E oggi mi ho messo le scarpe prima che mi si gonfiano, perché mi si gonfia un piede a me. Ed è un macello. Infatti oggi Natalia ci ha gonfiato la pancia, a chi si è fatto un piattone di gamberoni, ha detto altro che scie. Veramente era una sassaina di gamberoni. Da voi vedani di ravioli e da voi pure le melenzane alla parmigiana. Non so se merendo o se faccio colazione. Ci metto Gitto un piattone, me ne ho piatto duio, solo duio, No, che ne ho mangiato poco io. Con luci. Grazie Adriano, testimone. Fermo, confermo. Devo solo dire la verità, quello che sì. Ha mangiato tutto. due di numero, ma due veramente di numero. Così è. Non è vero allora la Salino. Manuel. Invece a me mi sa, mi sono piatte le palle invece. Hai visto, eh? Altro che mangiare la salsiccia, come ne mangi due? Tu gamberoni, pochito, ravioli, tu da lì, tu da là. Esatto lui. Eppure a me mi sa che domani un pezzo di pochito me lo compareggio a me. Ho mangiato a mezzogiorno. Te, lei da venire a mezzogiorno. E io con un altro mangiato tutta uccia che so che te la passa là, che fa piaceri. E poi, a di giù, domani posso le pizza, di zitta, zitta. Domani mi ruggeggio Lucci e il Giocamo. Dilli a Torino cosa ho cucinato la volta che mia moglie è andata in continente, Adrià. Anche Pamela dice una. E c'era buona quello che ho cucinato. Sì, perché... La carbonara l'hai grigio. No, vabbè, no, quella roba mitica, non come. Io la carbonara l'ho mangiata a Roma, nel ristorante che c'è vicino a Piazza del 500. Ero come figlia e ti posso dire che l'ho mangiata per due giorni perché mi piaceva troppo. Andavo a mezzogiorno, carbonara, la sera, a cena, carbonara, mi domani, carbonara, la sera, carbonara, ma buon avvio me. Sì, sì, confermo, quando è buona, se la mangi mattina e sera, tranquillamente. No, ma questo delinquente, lì, il nostro amico, cosa ha fatto? Ha preso i pacchi, lì, ha fatto la carbonara con i pacchi, con la cosa, col guanciale dentro. Buono, quando si ripie così, mi... o con le mezze mani, chiamateci cosa. Ma è un delinquente, ma che figo. Allora. Perché le fettuccine con i pomodori freschi, cattive erano. Lei la torta mi sono fatto gli spaghetti, anche su quei spaghetti grossi, numero 7, Barilla. E me lo fate con il pomodorino, ciliegino e basilico, ma così buono. Sì, ma può essere che è una ricetta tipo la tua, come la fatti tu. Sì, ma bisogna vedere. Io ci metto tante cose, escono buoni perché io li conduvemi. Natali, anche me se assaggi, ma sai che sono buone. Oh, quelli bumati vecchi sono buoni a prescindere, sono buoni. Una volta ho preso e ho fatto le fettuccine così, ma erano i gusti buoni. Con pomodorino ciliegino poi, oia. E poi così che l'ho preso, quel pomodoro, sai come si chiamava Natali? Aspetta, non me ne metto più. Aspetta, e come ci decino? Come si chiama? Non me ne metto. Non lo so. Io l'ho fatto anche con i pomodori San Marzano, quelli a zucchina, amico. Solo che io li ho tutti a pezzi prima di cucinarli. E a futuro devi vedere come ti esce. Secondo me, Adriano già le ha assaggiate, che l'avevo invitato quando le ho fatte. Ah, il pomodoro datterino l'ho fatto, che buono Natali. I datterini, sì sì. Però anche con i pomodori San Marzano sono buoni. Quando vai con Ghissi, che si ne vedi Guzzi, giustamente. E fai il rosso con Ghissi, ti mi ringrediti. Ah, io alla padella ne metto un po' di olio, poco poco, l'oliva. Poi ci metto un po' di cipolla soffrigge, quella rossa. Poi ci metto i pomodorini, ma ti dirò, poi ci metto quasi alla fine il basilico, poi ti cudo gli spaghetti dritti. Mamma mia! C'è qua un altro, c'è qua! Cazzo, Donino è lì, don Biggio di Memmi! Una banda di lì, di astronomi, inside, c'è qua! Emanuele, e tu cosa ti cucinerci? Io l'ho già fatto, l'ho fatto lenticchie con le costine. E te, lenticchie con cosa? Con costine e pasta. Con costine, siete voi che uccidete i bambini, te Natali? E da voi Emanuele ogni tanto affetta. E poi è diventato un mare di buco. Io sono magrolino, se ne devo mangiare. Ma vieni venire vai, che sei ingrassato una tonnellata, amici. Che cazzo una tonnellata? E vabbè, comunque dai, un 120 kg c'è nei mesi, a chi minimo mio fece 36 kg sotto per barra. 55 pezzi. di Natale. Deuro mantenga. Abbiamo delle mani. Già si tratta pure un manuele, non c'è problema. Beh, staccando la giubbocca, la mano in alto, io che la giù, crescimato. Ma chi su che là è un peggio di te? E di bocca buona, dai, e buona forchetta. E io ho grido, io. Ma Adria, a te ti fa tremare che cosa ti dirò per mangiare, eh? A me, troia, io ho la fortuna di... Io mangio questo di marisco, una cosa strana, è una roba, io mangio e quella gli chiedo. Come dici che sport fai, eh? Anch'io che già partita non riesco a bucandire. Che sport fai? Il nastro è canaletto. Io non riesco a fare, ragazzo, sono sempre così una vita, che a volte mangio anche poco, ma non farò manco per i duetti. Perché tu assimili tutto, Tony? Perché Adriano c'ha il metabolismo velocissimo, non veloce, no, velocissimo. È per quello che non ingrassa, è di costituzione così, Edu. Tu ce l'ha turbo, ce l'ha. Infatti c'ha il metabolismo con il turbo lui. Poi andava sì, quando diventi più vecchio, il tubo si ferma e metti la panza con le sue rompete. Vedi, Manuele è come te me, né più né meno, chi ci rimagna o chi ci rimizzi, tutto canto in panza e barre. Manuele, ma tu mi ascolti? Manuele, ascolti Adriano, sei portato a mangiare. No, però ascolto passo passo, ero curioso di sapere. Ma dov'è Manuele in questo momento? Lima Delta. No, però l'ascolto passo passo, vedete, l'ascolto passo. Lui è, adesso Manuele ha sentito questi discorsi, i dati di ricassi, di cose. È andato a tacciare a mangiare qualcosa. Manuele, ci sì, sei stato a mangiare. Robè, tu sei entrato? Non lo so se ti sente...